Al-Isra. Il viaggio notturno. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Gloria a colui che di notte trasportò il suo servo dalla santa moschea alla moschea remota, di cui benedicemmo i dintorni, per mostrargli qualcuno dei nostri segni. Egli è colui che tutto ascolta e tutto osserva. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Demmo a Mosè la scrittura e ne facemmo la guida per i figli di Israele, dicendo loro: non prendete altro protettore che me. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan shakura. Egli era un discendente di coloro che portammo insieme a Noè. In verità, era un servo riconoscente. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Decretammo nella scrittura contro i figli di Israele: per due volte porterete la corruzione sulla terra e sarete manifestamente superbi. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Quando si realizzò la prima delle nostre promesse, mandammo contro di voi servi nostri, di implacabile valore, che penetrarono nelle vostre contrade. La promessa è stata mantenuta. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Vi demmo quindi il sopravvento su di loro e vi corroborammo con ricchezze e progenie e facemmo di voi un popolo numeroso. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idha jaa wa'dul akhirati liyasu وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما وَلَوْ تَتْبِيرًا. Se fate il bene, lo fate a voi stessi. Se fate il male, è a voi stessi che lo fate. Quando poi si realizzò l'ultima promessa, i vostri volti furono oscurati, ed essi entrarono nel Tempio come già erano entrati, e distrussero completamente quello che avevano conquistato. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. Forse il vostro Signore vi userà misericordia, ma se persisterete, persisteremo. Abbiamo fatto dell'inferno una prigione per i miscredenti. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. In verità questo Corano conduce a ciò che è più giusto e annuncia la lieta novella ai credenti, a coloro che compiono il bene. In verità avranno una grande ricompensa. E in verità, per coloro che non credono nell'altra vita abbiamo preparato un doloroso castigo. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. L'uomo invoca il male come invoca il bene. In verità, l'uomo è frettoloso. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Abbiamo fatto la notte e il giorno come segni. È oscuro il segno della notte, mentre è chiaro il segno del giorno, affinché in essi cerchiate la grazia del vostro Signore e conosciate lo scorrere degli anni e il computo del tempo. Ed ogni cosa l'abbiamo esposto in dettaglio. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Al collo di ogni uomo abbiamo attaccato il suo destino, e nel giorno della resurrezione gli mostreremo uno scritto che vedrà dispiegato. اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Gli sarà detto: leggi il tuo scritto, oggi sarai il contabile di te stesso. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Chi segue la retta via, la segue a suo vantaggio, e chi si svia, lo fa a suo danno. E nessuno porterà il peso di un altro. Non castigheremo alcun popolo senza prima inviar loro un messaggero. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Quando vogliamo distruggere una città, ordiniamo il bene ai suoi ricchi, ma presto trasgrediscono. Si realizza allora il decreto e la distruggiamo completamente. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Quante generazioni sterminammo dopo Noè? Basta il tuo Signore per conoscere e osservare perfettamente i peccati dei suoi servi. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Quanto a chi desidera il caduco, ci affrettiamo a dare quello che vogliamo a chi vogliamo. Quindi lo destiniamo all'inferno, che dovrà subire, bandito e reietto. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Quanto invece a chi vuole l'altra vita, sforzandosi a tal fine ed è credente, il loro sforzo sarà accetto. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Sosterremo con i doni del tuo Signore questi e quelli. I doni del tuo Signore non sono negati a nessuno. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Osserva come diamo ad alcuni eccellenza su altri. Nell'altra vita, però, ci saranno livelli più elevati ed eccellenza maggiore. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhzula. Non accostare ad Allah un'altra divinità, che saresti bandito e reietto. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Il tuo Signore ha decretato di non adorare altri che Lui e di trattare bene i vostri genitori. se uno di loro o entrambi dovessero invecchiare presso di te, non dir loro uff e non li rimproverare, ma parla loro con rispetto. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Inclina con bontà verso di loro l'ala della tenerezza e di: O Signore, sii misericordioso nei loro confronti, come essi lo sono stati nei miei, allevandomi quando ero piccolo. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Il vostro Signore ben conosce quello che c'è nell'animo vostro. Se siete giusti, egli è colui che perdona coloro che tornano a lui pentiti. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Rendi il loro diritto ai parenti, ai poveri e al viandante, senza per questo essere prodigo. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Che in verità i prodighi sono fratelli dei diavoli e Satana è molto ingrato nei confronti del suo Signore. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. Se volti loro le spalle perché nulla hai da dare, pur sperando nella misericordia del tuo Signore, di loro una parola di bontà. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Non portare la mano al collo e non distenderla neppure con troppa larghezza, che ti ritroveresti biasimato e immiserito. Inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. In verità il tuo Signore concede con larghezza o parsimonia la sua provvidenza a chi vuole. In verità, egli osserva i suoi servi ed è ben informato. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Non uccidete i vostri figli per timore della miseria. Siamo noi a provvederli di cibo, come provvediamo a voi stessi. Ucciderli è veramente un peccato gravissimo. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Non ti avvicinare alla fornicazione. È davvero cosa turpe e un tristo sentiero. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. E non uccidete senza valida ragione coloro che Allah vi ha proibito di uccidere. Se qualcuno viene ucciso ingiustamente, diamo autorità al suo rappresentante. Che questi però non commetta eccessi nell'uccisione e sarà assistito. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Non toccate i beni dell'orfano se non a suo vantaggio e solo fino a quando non raggiunga l'età adulta. Rispettate il patto che in verità vi sarà chiesto di darne conto. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلك خير وأحسن تأويلا. Riempite la misura quando misurate e pesate con la bilancia più esatta. Questo è il bene che conduce al miglior esito. ولا تقف ما ليس لك به علم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Non seguire ciò di cui non hai conoscenza alcuna. Di tutto sarà chiesto conto, dell'udito, della vista e del cuore. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Non incedere sulla terra con alterigia, che non potrai fenderla, e giammai potrai essere alto come le montagne. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Tutto ciò è abominio detestato dal tuo Signore. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Ciò è quanto ti è stato rivelato dal tuo Signore a titolo di saggezza. Non porre assieme ad Allah un'altra divinità, che saresti gettato nell'inferno, bandito e reietto. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. Il vostro Signore vi avrebbe riservato dei maschi e avrebbe preso femmine tra gli angeli? In vero pronunciate parole mostruose. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. In verità abbiamo esposto la dottrina in questo Corano perché i miscredenti dessero ascolto. ma ciò non fa che aumentare la loro avversione. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Di, se ci fossero dei assieme a lui, come dicono alcuni, tali dei cercherebbero una via per giungere fino al padrone del trono celeste. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Gloria a lui. Egli è ben più alto di quello che dicono. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. I sette cieli e la terra e tutto ciò che in essi si trova lo glorificano. Non c'è nulla che non lo glorifichi lodandolo. Ma voi non percepite la loro lode. Egli è indulgente, perdonatore. وَإِذَا قَرَأْتَ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Quando leggi il Corano, mettiamo una spessa cortina tra te e coloro che non credono nell'altra vita. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Abbiamo avviluppato i loro cuori e nelle loro orecchie abbiamo posto un peso affinché non possano comprenderlo. Quando menzioni nel Corano il tuo Signore, l'unico, voltano le spalle con ripulsa. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا. Sappiamo molto bene cosa ascoltano, quando ti ascoltano, e anche quando sono in segreti conciliaboli e dicono gli empi: voi non seguite altri che un uomo stregato. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Guarda che metafore coniano su di te. Si sviano, incapaci di seguire alcun sentiero. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. E dicono: quando saremo ossa e polvere, saremo risuscitati a nuova creazione? قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. Di, foste anche pietra o ferro. أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. O qualunque altra creatura che possiate concepire. Diranno allora, chi mai ci farà ritornare? Di, colui che vi ha creati la prima volta. Scuoteranno allora le teste verso di te dicendo, quando avverrà tutto ciò? Di, è possibile che sia vicino. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Nel giorno in cui vi chiamerà, gli risponderete lodandolo e crederete di essere vissuti ben poco. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا. Dì ai miei servi che parlino nel modo migliore, poiché Satana si intromette tra loro. Satana per l'uomo è un nemico manifesto. Rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamkum aw in yasha yu'adhibkum. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Il vostro Signore vi conosce bene. Se vorrà, vi userà misericordia. Altrimenti vi castigherà. Non ti inviammo per essere responsabile di loro. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Il tuo Signore ben conosce quel che c'è nei cieli e sulla terra. Ad alcuni profeti abbiamo dato eccellenza sugli altri, e a Davide abbiamo dato il salterio. قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Di loro, invocate quelli che pretendete essere dei all'infuori di lui. Essi non sono in grado di evitarvi la sventura e neppure di allontanarla. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه rabbika kana mahzura. Quelli stessi che essi invocano cercano il mezzo di avvicinarsi al loro Signore, sperano nella sua misericordia e temono il suo castigo. In verità, il castigo del Signore è temibile. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. Non v'è città che non distruggeremo prima del giorno della resurrezione o che non colpiremo con severo castigo. Ciò è scritto nel libro. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Nulla ci impedisce di inviare i segni, se non il fatto che gli antichi li tacciarono di menzogna. Come segno tangibile, demmo la cammella ai Thamud, ma essi le fecero torto. Inviamo i segni solo per incutere sgomento. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Ricorda quando dicemmo: in verità il tuo Signore ti proteggerà dagli uomini, e la visione che ti abbiamo dato altro non è che una tentazione per le genti, come del resto l'albero maledetto nel Corano. Noi minacciamo, ma ciò non serve che ad accrescere la loro ribellione. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Quando dicemmo agli angeli: prosternatevi davanti ad Adamo, tutti si prosternarono eccetto Iblis, che disse: mi dovrei prosternare davanti a colui che hai creato dal fango? Qala ara'aytaka hadha alladhi karramta 'alayya la in akhartani ila yawmil qiyamati la E disse ancora: che questo è l'essere che è onorato più di me? Se mi darai tempo fino al giorno della resurrezione, avrò potere sulla sua discendenza, eccetto pochi. قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. Allah disse: vattene, e chiunque di loro ti seguirà avrà l'inferno per compenso, abbondante compenso. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Seduci con la tua voce quelli che potrai. Riunisci contro di loro i tuoi cavalieri e i tuoi fanti. Sii loro socio nelle ricchezze e nella progenie. Blandiscili con promesse. Le promesse di Satana non sono altro che inganni. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Non avrai però nessuna autorità sui miei servi. Il tuo Signore basterà a proteggerli. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. È il vostro Signore che spinge la nave sul mare affinché ricerchiate la sua grazia. In verità egli è misericordioso nei vostri confronti. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Quando siete in pericolo sul mare, coloro che invocate svaniscono. Lui no. Quando poi vi riconduce a terra salvi, vi allontanate da lui. L'uomo è ingrato. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. Siete forse certi che non vi faccia inghiottire da un baratro della terra o non invii contro di voi un uragano senza che possiate trovare chi vi protegga? Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fa yursila 'alaykum qasifan min ar-rihi fa yughriqakum bima kafartum فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. O siete forse certi che non vi conduco un'altra volta sul mare, mandi contro di voi un ciclone e vi faccia annegare per la vostra miscredenza, senza che possiate trovare chi vi difenda contro di noi? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. In verità, abbiamo onorato i figli di Adamo, li abbiamo condotti sulla terra e sul mare, e abbiamo concesso loro cibo eccellente, e li abbiamo fatti primeggiare su molte delle nostre creature. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Nel giorno in cui ogni comunità sarà richiamata assieme alla loro guida, coloro che riceveranno il rotolo nella destra leggeranno il loro rotolo e non subiranno il minimo torto. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. E colui che sarà stato cieco in questa vita lo sarà nell'altra, e più traviato ancora. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Intendevano infatti sviarti da ciò che ti abbiamo rivelato, nella speranza che ci attribuissi, inventandolo, altro che questo Corano. E allora ti avrebbero preso come amico. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَتَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. E se non ti avessimo rafforzato, avresti inclinato un po' verso di loro. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. E allora ti avremmo fatto soffrire un doppio supplizio nella vita e un doppio supplizio nella morte, e quindi non avresti trovato chi ti sarebbe stato d'ausilio contro di noi. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Poco mancò che non ti spingessero ad abbandonare questa regione esiliandoti. In tal caso vi sarebbero rimasti ben poco dopo di te. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Poiché questo è il nostro modo di agire nei confronti degli inviati che mandammo prima di te. E non c'è cambiamento nel nostro agire. Aqimi s-salata liduluki sh-shamsi ila ghasaqi l-layli wa qur'ana l-fajr. Inna qur'ana l-fajr kana mashhuda. Esegui l'orazione dal declino del sole fino alla caduta delle tenebre, e fa la recitazione dell'alba, che la recitazione dell'alba è testimoniata. Veglia in preghiera parte della notte, sarà per te un'opera supererogatoria. Presto il tuo Signore ti risusciterà ad una stazione lodata. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. E di, o Signor mio, fammi entrare con la verità, e fammi uscire con la verità, e concedimi potere e ausilio da parte tua. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. E di, è giunta la verità, la falsità è svanita. Invero, la falsità è destinata a svanire. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Facciamo scendere nel Corano ciò che è guarigione e misericordia per i credenti e ciò che accresce la sconfitta degli oppressori. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Quando colmiamo l'uomo di favori, si sottrae e si allontana. Quando invece lo coglie sventura, si dispera. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Di, ognuno agisce secondo la sua disposizione e il vostro Signore ben conosce chi segue la via migliore. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ti interrogheranno a proposito dell'anima. Rispondi: l'anima procede dall'ordine del mio Signore e non avete ricevuto che ben poca scienza a riguardo. Se volessimo, potremmo ritirare quello che ti abbiamo rivelato, e allora non potresti trovare alcun protettore contro di noi. Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alayka kabira. Se non lo facciamo, è per una misericordia del tuo Signore, poiché in verità la sua grazia su di te è grande. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دي. Se anche si riunissero gli uomini e demoni per produrre qualcosa di simile a questo Corano, non ci riuscirebbero, quando anche si aiutassero gli uni con gli altri. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أكثر الناس إلا كفورا. In questo Corano abbiamo proposto agli uomini ogni specie di metafora. La maggior parte di loro rifiuta tutto quanto, eccetto la miscredenza. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. E dicono: non ti presteremo fede finché non farai sgorgare per noi una sorgente dalla terra. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. O non avrai un giardino di palme e vigne nel quale farai sgorgare ruscelli copiosi. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. O non avrai fatto cadere, come pretendi, il cielo in pezzi su di noi. O non avrai fatto venire davanti a noi Allah e gli angeli in tuo aiuto. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. Oppure, finché non avrai una casa d'oro, o finché non sarai asceso al cielo, e comunque non crederemo alla tua ascesa al cielo finché non farai scendere su di noi un libro che possiamo leggere. Rispondi: gloria al mio Signore. Non sono altro che un uomo, un messaggero. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. Nulla impedisce alle genti di credere dopo che la guida è giunta loro, se non il dire: Allah ha davvero inviato un uomo per messaggero? قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السماء ملكا رسولا. Di: qualora sulla terra ci fossero gli angeli e vi camminassero in pace, avremmo certamente fatto scendere su di loro un angelo come messaggero. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Di: Allah è testimone sufficiente tra me e voi. In verità egli è ben informato e osserva i suoi servi. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا بكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Colui che Allah guida è ben diretto, ma quanto coloro che Allah svia, non troverai per loro patroni all'infuori di lui. E nel giorno della resurrezione li riuniremo trascinandoli sui loro volti, ciechi, muti e sordi. L'inferno sarà la loro dimora, e ogni volta che si raffredderà, ne ravviveremo le fiamme. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Sarà il loro compenso, perché tacciono di menzogne i nostri segni e dicono: quando saremo ossa e polvere, saremo resuscitati a nuova creazione? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Ma non vedono dunque che Allah, che ha creato i cieli e la terra, è capace di creare il loro eguale e ha fissato loro un termine sul quale non c'è dubbio alcuno? Gli ingiusti non ammettono altro che la miscredenza. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. Di, se possedeste i tesori della misericordia del mio Signore, li lesinereste per paura di spenderli, che l'uomo è avaro. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. In verità, abbiamo dato a Mosè 9 segni evidenti. Chiedi ai figli di Israele di quando giunse a loro, e Faraone gli disse: O Mosè, io credo che tu sia stregato. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. Disse: sai bene che non ha fatto scendere questi segni altri che il Signore dei cieli e della terra, prove inequivocabili della mia missione. Io credo, Faraone, che tu sia perduto. فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا. Faraone voleva scacciarli dalla terra, ma noi li facemmo annegare, lui e quelli che erano con lui. قُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Dicemmo poi ai figli di Israele: abitate la terra. Quando si compì l'ultima promessa, vi facemmo venire in massa eterogenea. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Con la verità abbiamo fatto scendere il Corano e con la verità è sceso. Non ti inviammo se non come annunciatore di buona novella e come ammonitore. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. È un Corano che abbiamo suddiviso affinché tu lo reciti lentamente agli uomini e lo facemmo scendere gradualmente. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Di, crediate in esso oppure no? Coloro ai quali in precedenza fu data la scienza si gettano prosternati, i volti contro la terra quando viene loro recitato. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. E dicono: gloria al nostro Signore, la promessa del nostro Signore si realizza. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Cadono prosternati sui loro volti, piangendo, e la loro umiltà si accresce. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Di, invocate Allah o invocate il compassionevole. Qualunque sia il nome con il quale lo invochiate, egli possiede i nomi più belli. Durante l'orazione, non recitare ad alta voce e neppure in sordina. Cerca piuttosto una via mediana. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. E di, la lode appartiene ad Allah, che non ha figlio alcuno, che non ha associati nella sua sovranità e non ha bisogno di protettori contro l'umiliazione. Magnifica la sua grandezza.